E a gran sorpresa, così inaspettatamente, l'agosto è diventato già settembre alla fine, questa è app, è una diretta, appunto di solito ogni estate ci concediamo un mese di pausa, ma ho voluto fare una eccezione a proposito di un grande festival jazz che seguo già da un po' di anni a questa parte, che è quello che avviene a Saalfelden, e questo succederà la prossima settimana, iniziando dal giovedì. Per quanto riguarda i shortcuts, quindi i piccoli concerti che non hanno a che fare con quello invece che avverrà nel Palazzo dei Congressi, quindi un main stage di 3 giorni, venerdì, sabato e domenica 28, 29 e 30 agosto. Ci andrò come al solito con il mio amico Paolo, che saluto. Ricordo che tra l'altro questo Paolo teneva assieme a Lucio Scuola una grandissima, bellissima trasmissione, così che proprio li ho conosciuti, qui a Radio Onde Furlane, lunedì sera, che si chiamava Run. E così ho voluto rivangare un po' il passato anche di questa emittente, non solo personale. Una caldissima estate che si fa un po' così, un po' più freschetta, quindi un po' più respirabile, vivibile. La musica ci accompagnerà questa sera per quanto riguarda appunto i personaggi che vestiranno, no, il festival in questi 3 giorni. Abbiamo ascoltato e stiamo ancora, tra l'altro, ascoltando questo Chris Lightcap's Big Mouth, ovvero Chris Lightcap, il fautore di questo progetto, tanto eccentrico che ha voluto così anche il suo nome bello in grossetto. È un bassista, ma oserei anche definirlo polistrumentista, che si cimenta quindi anche altri strumenti, accompagnato però da altri comunque prestigiosi musicisti. Greg Taborn, chi non lo conosce, percussioni invece un Geraki Cleaver, e qui poi ci saranno anche dei sassofoni come quello di Chris Cheek, Tony Malaby, è anche un altro nome non da poco. Hanno dato le stampe questo Epicenter, da cui ci siamo sentiti all'inizio trasmissione, un estratto, che si tratta di Down East. Quindi passerei a un altro brano che presenteranno proprio a questo festival, Nine Sound, è il titolo del prossimo pezzo di questa formidabile formazione jazz proprio di adesso, proprio di questi giorni. Molto recente il disco, è uscito per la prolifica etichetta portoghese Clean Feed. We'll be right back. Quindi ci siamo ascoltati alla fine, dopo Chris Lightcap's Big Mouth dall'album Epicenter, che presenteranno a Saalfelden Jazz Festival. Di questo appunto si parlerà questa sera, come ho già annunciato inizio trasmissione, per i fedelissimi di Up. Questa quindi non è una replica, replico ancora, e dopo un gioco di parole simpaticissimo, e quindi direi di proseguire, ma c'è la pubblicità. E quindi giusto il tempo di dire che dopo la formazione capitanata dal contrabbassista, bassista e polistrumentista Chris Lightcap, siamo ascoltati una formazione in questo caso nordica, veramente per l'esattezza della Norvegia, questa formazione, gli All Include, che presenteranno, guarda un po', sempre per la Clean Feed, Satan in Plain Clothes, che è l'ultimo loro lavoro registrato proprio di recente, nel dicembre del 2014, a Oslo. Ho fatto ascoltare proprio la traccia che dà il titolo all'album, che tra l'altro è stata poi anche registrata con la presenza del trombettista Thomas Johansson. E quindi vi lascio un piccolo break pubblicitario e subito dopo parleremo praticamente non solo di Saalfelden, del Festival Jazz, ma anche di questa etichetta portoghese. Ancora si ascolterà qualcosa della Clean Feed, un artista, una pianista in questo caso eccezionale, che però di lei appunto ci occuperemo tra breve. Quindi piccolo break e di nuovo con Happy.